Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Per quanto si fosse a metà dicembre, il tempo non aveva finora impedito alle due ragazze di compiere regolarmente un po' di moto. E l'indomani Emma doveva recarsi da una povera famiglia ammalata, abitante un po' fuori Highbury. Per raggiungere la solitaria catapecchia, le due amiche dovevano seguire Vicarage Lane, una stradicciola che si staccava ad angolo retto dall'arteria principale, larga ma piuttosto irregolare del villaggio, e che, come è facile intuire, conteneva la sacra dimora del reverendo Elton. Bisognava prima superare un gruppetto di case cadenti, poi a circa un quarto di miglio sorgeva la canonica, un vecchio edificio non molto in sesto, situato un po' di fianco alla strada e che non presentava vantaggi di posizione. Ma l'attuale proprietario l'aveva notevolmente abbellito e così com'era le due amiche non poterono passargli davanti senza rallentare il passo e aguzzare gli occhi. Emma osservò. «Eccola! Qui, uno dei prossimi giorni, lei e il libro degli indovinelli verrete!» E Harriet... «Oh, che amore di casa! Com'è bella! Ha le tendine gialle che Miss Nash ammira tanto!» «Adesso non frequento molto questa strada», disse Emma quando furono più avanti. «Ma allora sarà per me motivo di attrazione. E a poco farò conoscenza con tutte le siepi, le porte, gli stagni e gli alberi potati di questa parte di Highbury». Risultò che Harriet non era mai stata in vita sua nella canonica e così viva era la sua curiosità di vederla che, tutto sommato, apparenze esterne e probabilità, Emma non poté fare a meno di classificarla come prova d'amore sotto la stessa rubrica della mente svelta che il reverendo Elton le aveva attribuita. «Vorrei che ce lo potessimo permettere», disse. «Ma non trovo un pretesto decente per entrare. Non c'è donna di servizio alla quale chiedere della sua governante, né messaggio da parte del babbo». Rifletté, ma non venne a capo di nulla. Dopo un silenzio di qualche minuto da ambo le parti, Harriet ricominciò. «Mi pare così impossibile, Miss Woodhouse, che lei non si sia sposata o non sia in procinto di sposarsi. Tanto è affascinante». Emma rise e la sua risposta fu: «Che io sia affascinante, Harriet, non basta per indurmi al matrimonio. Bisogna che a mia volta trovi affascinante altre persone, almeno una. E non solo non sono in procinto di sposarmi, ma ho ben poca intenzione di sposarmi mai». «Ma non posso crederlo!» «Per lasciarmi tentare, dovrei trovare un uomo che superasse chiunque abbia finora conosciuto. Il reverendo Elton, come lei sa», aggiunse riprendendosi, «è fuori discussione e di conoscere una persona così non ne ho nessun desiderio. Preferirei non lasciarmi tentare. Cambiare in meglio non posso. Se dovessi sposarmi, temo che me ne pentirei». «Buon Dio, è così strano sentire una donna parlare a questo modo. Non ho gli allettamenti al matrimonio che le donne sogliono avere. Certo, se mi innamorassi sarebbe tutt'altra cosa, ma innamorata non mi sono mai. Non è nel mio destino, né nella mia natura, e non credo che mi accadrà in avvenire. Ma senza amore non sarò certo così sciocca da cambiare una situazione come la mia. Beni di fortuna non me ne occorrono, posizione sociale altrettanto. Poche donne sono, credo, padrone della casa del marito la metà di quanto sono padrona io di Hartsfield. E mai, mai potrei aspettarmi d'essere così sinceramente amata e tenuta in rispetto, d'essere sempre la prima e sicura di aver sempre ragione agli occhi di un uomo più che con mio padre». «Ma allora rimarrà per tutta la vita zitella, come Miss Bates!» «Non poteva scegliere immagine più terrificante, Harriet. E se mai pensassi di somigliare a Miss Bates, così insipida, soddisfatta di sé, sorridente, prosaica, incapace di discernere e ignara di finezze, così pronta a raccontare ogni cosa intorno ad ogni persona della sua stessa cerchia, mi sposerei domattina. Ma fra noi sono convinta che un punto di contatto non ci sarà mai, salvo nel non esserci sposate. Comunque sarà sempre una zitella, e questo è orribile. Non se ne dia pensiero, Harriet. Non sarò mai una povera vecchia zitella. E non c'è che la povertà a rendere spregevole agli occhi di un pubblico generoso il celibato. Erano ormai vicini alla catapecchia e tutti gli argomenti oziosi vennero lasciati cadere. Emma era molto caritatevole e i disagi dei poveri erano sicuri d'essere alleviati tanto dalle sue attenzioni personali e dalla sua bontà, dai suoi consigli e dalla sua pazienza, quanto dalla sua borsa. Li capiva, mostrava indulgenza per la loro rozzezza e le loro tentazioni. Non si aspettava romanticamente virtù straordinarie da gente per cui l'istruzione aveva fatto così poco. Partecipava con pronta simpatia alle loro ansie e li aiutava con tanta intelligenza quanto benvolere. Nel caso attuale, oggetto della sua visita erano insieme malattia e povertà. E intrattenutasi il tempo necessario per dare conforto e aiuto, lasciò la catapecchia con una tale impressione della scena da farle dire all'amica mentre si allontanavano: «Sono spettacoli questi che fanno bene, Harriet. Tutto il resto sembra al confronto così meschino. Ora ho la sensazione di non poter pensare per tutto il resto del giorno che a quei poveracci. Eppure, chi può dire con quale rapidità mi svaniranno dalla mente?» «Verissimo», disse Harriet. «Poveri diavoli, non si può pensare ad altro. E a dire il vero, non credo che l'impressione si cancellerà tanto presto», disse Emma attraversando la siepe bassa e il gradino malfermo che terminavano il sentieruolo fangoso da cui il giardino era tagliato e sboccando nuovamente sulla strada. «Non credo che si cancellerà», disse fermandosi a dare un'ultima occhiata allo squallore dell'esterno del cottage e a ricordare quello ancor più triste dall'interno. «Oh no, certo», disse la compagna. Proseguirono. La stradina faceva una piccola svolta e, passata questa, ecco apparire il reverendo Elton, così vicino da concedere ad Emma appena il tempo di fiatare. «Oh, Harriet! Ecco che, d'improvviso, la nostra perseveranza nei pensieri buoni viene messa alla prova. Beh, spero ci si vorrà concedere che, se la compassione ha recato a noi qualche sforzo e qualche sollievo ai sofferenti, tutto quello che veramente conta è stato fatto. Se sentiamo per i miseri quel tanto che basta per fare a loro pro tutto il possibile, il resto è simpatia vuota, atta unicamente a crearci dei fastidi». Harriet poté rispondere solo: «Oh sì, buon Dio», prima che quel signore si trovasse loro davanti. Comunque, le necessità e le sofferenze della povera famiglia costituirono il primo tema dell'incontro. Il reverendo Elton stava appunto andando a farle visita, ora la rimandava, ma ebbero un interessantissimo scambio di idee su quanto si poteva e si doveva fare. Poi il reverendo Elton si voltò ad accompagnarle. «Imbattersi durante una missione come questa», pensava Emma. «Trovarsi impegnati in un comune programma di azioni benefiche servirà da ambo le parti ad accrescere l'amore. E non mi stupirei che portasse alla dichiarazione finale. Così avverrebbe certamente se non ci fossi io. Adesso vorrei trovarmi in tutt'altro luogo». Ansiosa, per quanto le era possibile, di separarsi da loro, subito dopo imboccò un sentierino leggermente rialzato su uno dei bordi della strada, lasciandoli insieme sulla via principale. Ma non vi era da più di 2 minuti, quando si accorse che le abitudini di dipendenza e imitazione proprie di Harriet stavano conducendovi anche lei e che ben presto li avrebbe avuti tutti e 2 alle calcagne. Questo non andava. Di colpo, fingendo di dover far chissà che modifica al nodo di uno stivaletto, si fermò e, curvandosi così da occupare interamente il sentierino, li pregò di avere la bontà di proseguire, che in mezzo minuto li avrebbe raggiunti. I due ubbidirono e, passato il tempo che le sembrò ragionevole per sistemare lo stivaletto, ebbe il conforto di poter rimanere ancora indietro, giacché fu raggiunta da una bambina della catapecchia che, come le era stato ordinato, andava con una pentola a prendere del brodo ad Hartfield. Camminare a fianco della bimba e parlarle e interrogarla era la cosa più naturale di questo mondo. O lo sarebbe stato se avesse agito senza secondo fine. Anche gli altri potevano tenersi avanti senza obbligo di aspettarla. Tuttavia, involontariamente, guadagnava terreno. Il passo della bimba era spedito e il loro piuttosto lento. E ciò la preoccupava tanto più in quanto i due erano immersi in una conversazione evidentemente interessante. Il reverendo Elton parlava con calore. Harriet ascoltava con attenzione e con piacere, ed Emma, mandata avanti la bimba, cominciava a pensare al modo di rimanere un po' più indietro, quando tutti e due si guardarono attorno e lei fu costretta a raggiungerli. Il reverendo Elton stava ancora parlando, assorbito in questo o quel particolare del discorso, ed Emma provò una certa delusione nell'apprendere che si era limitato a descrivere alla bella amica la cena della sera prima in casa del signor Cole e che ella arrivava in buon punto per il formaggio di Stilton, il burro, il sedano, la barbabietola e via via tutto il dessert. Emma si consolò al pensiero che in seguito sarebbe certo venuto di meglio. Qualunque cosa interessa fra due che si vogliono bene e qualunque cosa servirà d'introduzione a ciò che è più vicino al cuore. Fossi potuta rimanere indietro. Continuarono a camminare insieme a passi lenti finché si disegnò ai loro occhi il recinto della canonica e a questo punto l'improvvisa decisione di farvi entrare Harriet le suggerì qualche altra cosa che proprio non andava nello stivaletto. E rimase indietro per rimediarvi. Strappò il laccio e, abilmente gettandolo in un fosso, fu costretta a pregarli di fermarsi e prendere atto della sua incapacità di sistemar le cose in modo da poter tornare a casa senza eccessiva fatica. «Una parte del laccio se n'è andata», disse, «e non so come sbrigarmela. Devo essere un inciampo per voi due e spero di non trovarmi troppo spesso così male equipaggiata». Devo pregarla, reverendo, di lasciarmi fermare a casa sua e chiedere alla governante un pezzo di nastro o di stringa o qualunque cosa serva a tenere insieme la scarpa. A questa proposta il reverendo Elton parve toccare il cielo con un dito e nulla poté superare i suoi riguardi e la sua premura nel condurle dentro e cercare di far sì che tutto vi apparisse nella luce migliore. La stanza nella quale furono introdotte era quella generalmente occupata e che dava sulla strada. Dietro, in comunicazione diretta, ve ne era un'altra. La porta era spalancata ed Emma vi entrò insieme con la governante per riceverne nel modo più comodo l'aiuto. Fu costretta a lasciare la porta aperta come l'aveva trovata, ma supponeva che il reverendo Elton la chiudesse. Non fu chiusa, tuttavia. Rimase ostinatamente spalancata, ma impegnando la governante in una conversazione ininterrotta, Emma sperava di facilitargli nella stanza accanto la scelta del compito. Per 10 minuti non poté sentire altro che se stessa, ma non si poteva tirare più in lungo e alla fine dovette smettere il gioco e riapparire. Gli innamorati erano alla finestra uno di fianco all'altra. La scena si presentava nella luce più favorevole e per mezzo minuto Emma sentì tutto l'orgoglio di un'astuzia ben riuscita. Ma non andava. Elton non era arrivato al punto. Era stato pieno di grazia e di finezza. Aveva raccontato ad Harriet che le aveva viste passare e si era deciso a seguirle. Altre piccole galanterie ed allusioni erano state lasciate cadere, ma nulla di serio. Cauto. «Molto cauto», pensò Emma. «Fa un passetto alla volta. Non arrischierà nulla prima di sentirsi sul sicuro». Eppure, sebbene l'abile stratagemma non avesse dato tutti i frutti, non poteva non lusingarsi che avesse concesso ad entrambi di godere l'attimo presente e dovesse in seguito condurli al grande evento. E ora bisognava abbandonare a se stesso il reverendo Elton. Non era più in potere di Emma vegliare sulla sua felicità o accelerarne il passo. L'arrivo della famiglia di sua sorella era ormai così vicino che, prima nell'attesa, poi nella realtà, divenne per lei il primo motivo di interesse. E durante i 10 giorni della loro permanenza ad Hartfield non ci si poteva aspettare, né se lo aspettava, che offrisse ai due innamorati più di un aiuto occasionale e fortuito. Comunque, se volevano, avevano tutta la possibilità di marciar spediti. E lo volessero o no, non potevano farne a meno in un modo o nell'altro. Non desiderava aver più tempo libero da dedicargli, Emma. Certa gente, più si fa per loro, meno fanno per sé. Naturalmente, Mr. e Mrs. Knightley, per essere rimasti lontani dal Surrey più del consueto, suscitavano ad Highbury un interesse superiore al normale. Fino a quell'anno, dal tempo del matrimonio, ogni vacanza prolungata era stata divisa fra Hartfield e Donwell Abbey, ma tutte le ferie di quell'autunno erano state assorbite dai bagni di mare per i bambini, talché da più mesi non li si vedeva in modo regolare dai loro parenti del Surrey e non li si vedeva affatto dal signor Woodhouse, che non c'era verso di convincere a spostarsi fino a Londra, nemmeno per amor di Isabella, e che perciò era terribilmente nervoso e trepidamente felice nell'attesa di una visita, ahimè, troppo breve. Pensava molto ai disagi del viaggio per lei e non poco alle fatiche dei suoi cavalli e del cocchiere, che dovevano trasportare una parte della compagnia nell'ultima metà del viaggio. Ma erano allarmi ingiustificati, perché le 16 miglia furono felicemente coperte e il signore e la signora Knightley, i loro 5 figli e una congrua schiera di bambinaie raggiunsero Hartfield sani e salvi. Il trambusto e la gioia di quell'arrivo, le molte persone alle quali bisognò parlare, porgere il benvenuto, dare incoraggiamento e sistemazione in questa o quella parte della casa, produssero una confusione, un baccano che i suoi nervi non avrebbero potuto sopportare per nessun'altra ragione, né sopportare a lungo nemmeno per questa. Ma le consuetudini di vita ad Hartfield e i sentimenti di suo padre erano talmente rispettati dalla signora Knightley che, nonostante la materna sollecitudine per l'immediato svago dei suoi piccoli e perché non vi fosse il minimo indugio nel concedere loro tutta la libertà che potessero desiderare, insieme con tutte le attenzioni possibili, e il mangiare, e il bere, e il dormire, e il giocare, ai bambini non era mai permesso di dargli a lungo fastidio, sia in quanto bambini, sia per il trambusto di doverli tener d'occhio. La signora Knightley era una graziosa ed elegante donnina, dai modi calmi e cortesi, di un'indole molto dolce e affettiva, tutta assorbita dalla famiglia. Moglie devota, madre amorosa e così teneramente affezionata al babbo e alla sorella che non fosse stato per quei legami più profondi, un amore più caldo sarebbe sembrato impossibile. Mai che trovasse difetti in loro. Donna di mente non robusta né pronta, aveva ereditato dal padre, oltre a queste affinità, anche molto della costituzione. Era delicata di salute, sempre in apprensione per quella dei figli, piena di timori e di apprensioni e attaccata al suo Mr. Wingfield, speziale di città, quanto poteva esserlo il padre a Mr. Perry. Si assomigliavano anche in una generale bonomia e nell'abitudine radicata di un profondo rispetto per ogni vecchia conoscenza. Il signor John Knightley era un uomo slanciato, signorile d'aspetto e molto abile, che aveva fatto carriera. Casalingo e pieno di rispettabilità nella sua veste privata, ma con modi improntati a un riserbo che gli impediva di riuscire simpatico a tutti e con una certa tendenza a saltuari attacchi di malumore. Non era un tipo burbero, né tanto spesso e irragionevolmente immusonito da meritarsi quel rimprovero. ma il carattere non era ciò che possedeva di più perfetto e, in vero, con una moglie che l'adorava, era inevitabile che ogni difetto naturale del carattere prendesse rilievo. L'estrema dolcezza del carattere di lei doveva per forza di cose oscurare il suo. Aveva tutta la chiarezza e agilità mentale che a lei mancava e poteva a volte uscire in un gesto scontroso o in una parola brusca. Non apparteneva alla rosa dei beniamini di sua cognata. Nulla che in lui stonasse le sfuggiva. Emma avvertiva subito i piccoli torti fatti ad Isabella e che a Isabella passavano inosservati. Forse avrebbe potuto lasciarli correre se i suoi modi con lei fossero stati più benevoli, mentre non erano che quelli di un fratello e amico tranquillamente cortese, senza lode e senza cecità. Ma non v'era sfumatura di riguardo personale che la inducesse a chiudere gli occhi sulla maggior colpa di cui, a suo parere, a volte si macchiava: l'assenza di una rispettosa tolleranza nei riguardi del padre, e in questo non aveva sempre la pazienza che si sarebbe potuta desiderare. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.